24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Basta! Basta! Basta! Eh sì, oggi voglio iniziare così, un po' poco soft, lo ammetto, sono le 6:34 minuti, buongiorno cari italiani, ma... Oggi mi sono immedesimato in un giovane di 25 anni che prende i giornali e vede il dibattito su amnistia e indulto che spacca il PD. E allora mi è venuto così, da interpretare un Oscar Giannino, dannata, con il basta! Bene, sono le 6:34, come detto c'è Elisabetta Fusconi in redazione, ancora a quest'ora. Poi basta anche questo, succedono cose veramente incredibili a 24 mattino, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia e può aprire il nostro Parlamento quando si apre la 24esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Caffè a tutti, è anche la 24esima settimana decisiva che si apre oggi per l'abolizione delle province, cari italiani. Siamo pronti, siamo caldi, siamo in attesa e voglio salutare subito. Chi? Allora, voglio salutare Vladimir Luxuria, buongiorno, bentrovata. Buongiorno. E buon inizio settimana, direttrice artistica del Gay Village a Roma. Vladimir, ti devo presentare una direttrice. Anzi, la capa, come la chiamiamo qui, la capa della Padania, eh? Aurora Lussana, buongiorno Aurora, ben ritrovata. Eccomi qua, buon dia a tutti. Com'è che dici? Buon dia a tutti. Ah, buon dì. No, come in anno si dice buon dì. Ah, buon dì, no. Buon dì. Perché se deve risparmiare le parole, spending gravy anche nel lessico. Buon dì. Più immediato, più televisivo, più radiofonico. Siamo stessi facendo. Userò invece un cito Miracolo a Milano, un bellissimo film, dicendo bello. Buongiorno e che sia davvero un buongiorno. Oh, ecco. A giudicare dai giornali non lo so, comunque. No, sì, c'è il dibattito su amnistia e indulto che fa litigare Renzi. E quelli del PD, mamma mia ragazzi, e poi, c'è grande attesa per la legge di stabilità e quello si capirà se ci saranno tasse, ma questo è domani, tutto domani, anzi Letta è abbastanza infuriato, ha detto basta, scoprirete tutto domani, tutte le anticipazioni sono solo caos, si scoprirà domani, insomma, mi sa che la cosa più interessante da cui voglio partire, voglio subito un vostro parere, è il dibattito sui funerali di Priebke, che rimane la polemica italiana a dire... C'è adesso l'avvocato che dice li farò in strada se non mi danno l'autorizzazione. Vladimir, che ne pensi tu che stai a Roma? Questa cosa è davvero così sentita? Perché dai giornali dedicano due pagine tutti. Io sono sempre per la pietas, per la sepoltura, per il fatto che tutti dobbiamo avere il diritto di poter andare a piangere i nostri cari nonostante tutto quello che hanno fatto nella loro vita. Però Priebke... insomma, è stato il responsabile delle Fosse Ardeatine, è una persona che non si è mai pentita di quello che ha fatto e che anzi ha negato addirittura l'Olocausto. Quindi sinceramente sono d'accordo col sindaco Marino che ha fatto appello al prefetto per fare in modo che Priebke non abbia la sepoltura a Roma. Mm. E sono anche molto contenta del cambio di passo del Vaticano, che rispetto a anni fa in cui invece ha dato i funerali a Pinochet, questa volta ha deciso che non daranno i funerali a questo assassino. Mm. E quindi se ne andasse in Germania dove è nato e lì potrà avere la sua sepoltura. Però diciamo la sepoltura forse non vuole neanche essere sepolto in Italia, questo non si sa. La questione dei funerali è un po' più stringente, nel senso che è una questione da fare. Non so, tu Aurora che ne pensi? Perché... No, beh, se Lussuria è per la pietas, io sono per la pietas, ovviamente. Detto questo, chi ha paura di un morto, credo che sia l'aberrazione contemporanea, perché insomma si parla di pacificazione da anni, evidentemente qualcuno crede che un centenario, un tedesco di 100 anni che ha massacrato dei civili forse faccia ancora paura. Io ricordo altri massacri, penso, mi ha scritto un lettore della Padania ricordandomi il massacro di My Lai, conosciuto anche come il massacro di Son Mi, fu un massacro di civili inermi in Vietnam, durante la guerra in Vietnam, 350 civili agli ordini del tenente William Kelly, probabilmente, boh, ripeto, fa fan più schifo i massacratori tedeschi dei massacratori americani, legittimo, ma un sindaco di Roma, ripeto, un po' di pietas, non pietas, dovrebbe avercela, perché ripeto, se uno c'ha paura di un morto, forse però, ha paura di ma vivere. Sì, ma la questione, Aurora, è che qui, questo qui è l'autore, e non si è mai distanziato di uno dei massacri avvenuti a Roma. Devono essere dei pentiti. No, ma a Roma, cioè, non è che il generale americano l'hanno sepolto a Milano. Capisci? O gli hanno fatto i funerali a Milano? Ma appunto, perché è una città estremamente civile, Roma dovrebbe essere capace di pacificarsi nell'anima e non temere i morti, perché Roma, i cittadini di Roma sono più forti di un morto, dai. Quindi cittadini di Roma, dice Vladimir, cittadini di Roma, tu che sei cittadino di Roma, siete più forti di un massacratore, questo dice. Io credo che una persona che non si è mai pentita, che anzi ha rivendicato quello che ha fatto, credo che non meriti davvero di avere una tomba nella città, che è medaglia d'oro alla resistenza. Niente, come finirà questa storia poi non si sa, perché giustamente l'avvocato dice: io i funerali li devo fare, piuttosto sono pronto a farli in strada, sì, poi alla solita l'italiana, bisogna poi creare quelle situazioni anche di immagino di ordine pubblico, abbastanza, vabbè, ma insomma questa è la cosa che più mi ha incuriosito sui giornali. Per il resto, cosa dobbiamo fare, Aurora? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlare di immigrazione, poi dopo adesso arrivano i militari al largo per cercare di frenare gli sbarchi. Cosa devi dire? Mostra pietas anche qui una volta, però devo allora dire. Certo, ma proprio perché noi siamo umani, abbiamo la pietas, perché Seb Prib, che rappresenta proprio la banalità del male, no? Ci ricordava Nara, insomma, lo squallore di Prib, che è un po' quello, no? Perché sai, uno che sceglie il male in maniera autentica, io lo rispetto, uno che esegue gli ordini. Come lo rispetto? Mamma mia, non cioè, come, no, no, come lo rispetto? No, come lo rispetto? Scusami un attimo, non è che noi dobbiamo rieducare il mondo, cioè se uno sceglie il male, poi è per quello che io sono contro sia l'amnistia che l'indulto. Ho capito, ma tu, cioè, no, ma fammi capire, no, tu rispetti. Il male, paga le conseguenze. Ma certo, ma fammi capire, tu rispetti la scelta di Priebke di eseguire gli ordini? Perché è squallido? Perché lui è la banalità del male, cioè esegue il male. Cioè se uno in maniera autentica sceglie anche in maniera anticonformista, se vuoi, contro le regole del nostro consesso civile, di infrangere le regole, io lo rispetto, poi paga. È per quello che sono contro, non solo. Ho capito, ma non capisco perché lo rispetti, cioè non è che uno dice è coerente perché ha scelto il male. Allora io non è che sono il Papa, che ho il bene da diffondere, io non c'ho niente da insegnare al mondo. Però le regole noi le dobbiamo rispettare, quindi te hai sbagliato, non è che io dico che vergogna, no, né indulto, paghi. E basta, finì, ma non è che dico che roba, ti devo rieducare, ti insegno io come vivere. Uno può anche scegliere, scusa, il male è ontologico, è connaturato in ciascuno. Sì, ma è una scelta, ma è il dire io rispetto chi sceglie il male con coerenza. Cioè... Ma certo, perché non è che dico chi è in carcere, mio Dio, è la vergogna dell'umanità. No, cioè non ho questa presunzione ideologica. Cioè io non sono così intollerante, cioè sono tollerante nel senso che concepisco che esista il male, la non lo so, però prima di addentrarci su questo, perché Vladimir dice mamma mia quando no, ma guardi, io posso, cioè veramente sentire oggi una persona che è in politica che dice io rispetto chi ha eseguito un ordine riferendosi a Prib, che io credo che sia la cosa più orrenda che si possa sentire, mi fa veramente prezzo. Non ho altro da aggiungere. Sì, effettivamente questa frase a rispetto, cioè, è un po' contorto il ragionamento. Allora io posso capire la questione del male, cioè, ma rispettare chi sceglie coerentemente il male perché così paga, non so, Lussana, non l'ho. Però allora vabbè che c'è la lussuria e dobbiamo fare l'omelia. Ma no, ma vabbè, che c'entra l'omelia? Dai, non... Ho detto soltanto che, allora, io sono profondamente contraria all'indulto e all'amnistia. C'ho qua ancora i manifesti contro l'amnistia del Prodi del 2006, Luxura evidentemente l'amnistia l'ha votata. Quindi, allora, ripeto, anche lo svuota carceri di luglio, che abbiamo passato l'estate con i camion vela contro lo svuota carceri, 20.000 in libertà. Allora, io non sono qua a dire che noi siamo migliori di chi è in carcere. Okay, perché lo squallore e la disumanità e forse il male connaturato in ciascuno di noi. Non sono più a fare le prediche e le omelie. Sì. Dico soltanto che chi è finito in galera non deve essere mai premiato né con l'amnistia né con sì, ma questa è un'altra questione. Noi eravamo rimasti sulla questione di Priv, che poi sull'indulto amnistia. Che fai, sbuffi? Fa sbuffa, Vladimir Lucio. No, adesso stiamo affrontando un altro argomento. Sì, prima. Si stava parlando di PIP. Infatti. Adesso stiamo parlando di un altro argomento. Anch'io sono per la certezza della pena, nel senso che chi commette uno sbaglio deve pagare. Però se è lo Stato a sbagliare, perché di anno in anno si dice sempre che bisogna fare più istituti di pena, e invece poi il risultato qual è? Che in una cella per 6 persone ce ne sono 12. Io credo che non sia giusto far pagare a una persona che sta scontando una pena aggiuntiva, cioè il sovraffollamento delle carceri, che significa aumentare l'aggressività, significa aumentare atti di autolesionismo. Io credo che quando c'è questo fallimento dello Stato, e lo Stato deve fare qualcosa, perché non può costringere delle persone a vivere come delle bestie. Io ho visitato i carceri quando ero parlamentare, ho visto quelle situazioni, e non credo che sia né umano né giusto. E su questo sono perfettamente d'accordo. Il problema è perché se la politica non sa risolvere questa situazione in maniera radicale, perché ogni 3, 4, 5 anni... poi si deve ricorrere a questo, con anche il senso effettivamente di impunità che è un po' dilagante. Dice, vabbè, ma intanto, no, Vladimir, tanto ogni tanto poi ci sono questi provvedimenti e poi non si risolve in maniera strutturale il problema. Infatti questo è un problema, nel senso che se non... Io credo che se la politica non fa in modo che ci siano delle strutture che possano ospitare diciamo così, delle persone che vengono incarcerate in maniera civile e rispettando anche quel principio costituzionale che è la rieducazione, io credo che non... Allora, o si dimettono tutti, dicono abbiamo fallito, oppure non, ma non possono far scontare su chi sta in galera. Io per galera intendo sia le carceri, sia i centri di identificazione. Tu l'hai votato l'indulto effettivamente nel 2006? Sì. Perché anche nel 2006 c'era una situazione di sovraffollamento, l'ho votato. L'hai votato. Andiamo, ma non perché io sono contenta che la gente esca fuori dalla galera. No, ma è il solito strumento italiano a tampone per cercare di risolvere effettivamente il fatto che debbano vivere ammassati. Questo è sbagliato. È la risposta politica che è sempre così. Risolvere l'emergenza del momento, tutto qua. 24 mattino. E il mio consiglio è mezz'ora fissa tutte le mattine, no, non stop, senza censura, per tastare il polso di tutta l'Italia, ma con solo 2 chiamate che mandate in diretta, magari anche filtrate, non funziona. Buongiorno Alessandro, vorrei schierarmi con Adi Nolfi per dire che gli italiani sono un popolo di merda, dementi, stupidi, che si fanno abbindolare da 4 cialtroni politici di quello che dicono per il naso. Gli italiani non sono stupidi, dicono i politici, capiranno, sì, gli italiani sono un popolo di stupidi dementi. Buongiorno, vorrei dire al signor Milan che preferirei facesse una rassegna stampa priva di sogghigni, commenti, eccetera. Vorrei una rassegna stampa neutra, anche quello sulla carta costa lo trovo un intervento stupido. Se un articolo non è valido, non vale la pena citarlo. Mario Sberna, Premier, questi ci vuole come gente in Parlamento. Mario Sberna, Premier. Caro Alessandro, innanzitutto sei simpaticissimo, poi ti volevo chiedere porre una domanda. Ma visto che tra i capitani di Alitalia c'è anche Colaninno Senior, non pensi che Colaninno Junior si dovrebbe dimettere dalla carica di deputato? Boh, adesso non lo so, anche qui le colpe dei padri e quelle dei figli, o presunte colpe. Vabbè, siamo con Aurora Lussana, direttore della Padania, e Vladimir Luxuria, direttrice artistica del Gay Village a Roma. Vi devo. Oh, ecco questo è stato un momento di alta televisione ieri. Brunetta, l'avete visto, Vladimir? Hai visto Brunetta, Aurora, Brunetta e Fazio? A un certo punto dicevo: ma come sono tranquilli, ma come sono pacati, ma come sono sereni. Si vedeva che Fazio era un po' irrigidito, non era con i soliti 3-4 amici che invita, ma era lì che. A un certo punto scoppia la situazione quando Brunetta parla dello stipendio. Guardi, io sono orgogliosissimo. Anch'io. Di quello che guadagno, perché venendo da una famiglia normale so e conosco il valore del denaro. Anch'io. Sono orgogliosissimo di restituire il 50% di quello che guadagno alla collettività in tasse, tutti, e non ho nessuna denuncia per frode fiscale. Come tutti gli italiani. Non ho nessuna denuncia per frode fiscale. Terza cosa, questo programma. Ma mi aveva detto che il pubblico non era di parte. No, io penso che il pubblico sperasse che non arrivassimo a questo argomento. No, ma questo è un altro discorso. È lei che l'ha prodotto. E così. E poi. Mi preme dire al pubblico che questo programma è interamente pagato. E non è detto che sia un bene, perché poteva anche non essere così, e la funzione di servizio pubblico è un'altra. Pagato interamente dalla pubblicità. Non quindi è proprio così. Questo programma non sì, è totalmente pagato. Non è proprio così. Allora, non è proprio così. Prego il direttore generale così. Di dare tutti così. I conti non di questo programma. Così. Ma comunque, non è proprio così. Non è proprio così. Abbiamo capito, Brunetta. Vabbè, insomma, dai, poi sono andati avanti. Vladimir Luxuria, questo tema del quanto guadagna. Quanto guadagni tu come direttrice artistica del Gay Village? Quanto guadagni? No, quanto sacco guadagni? Un sacco di soldi. Alla Brunetta. Ma devo dire, vabbè, è una domanda lecita ovviamente chiedere a una persona quanto guadagni. In America è molto una cosa abbastanza tranquilla chiedere a qualcuno quanto guadagni. Però certo che sentirlo dire da uno che rappresenta la politica, che fa i conti a un altro, non so quanto possa essere credibile oggi per quello che riguarda l'opinione pubblica. E poi penso che adesso, io non so quanto guadagni Fazio, però credo che davvero sia una grande risorsa per la RAI. Sì, sì. Cioè, o qualunque, lui è Remida, qualunque cosa che tocca diventa d'oro. Remida. Aurora, tu quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto allora, guadagni? Io sono i minimi tabellari sindacali, anche perché c'è uno stato di solidarietà e quindi ovviamente... Alla Padania. Vabbè, c'è la crisi dell'editoria e si sa... Ci ho detto alla Brunetta, sì. Aboliamo il canone RAI. La cosa ambigua del canone RAI è che non si capisce né se è una tassa né se è un'imposta. È una roba da pagare. È una tassa e in parte un'imposta. Ma aboliamo il canone RAI. È un po' in difficoltà il Fazio, perché sai, quando uno guadagna tanto si sente un po' in colpa di questi tempi. È Fazio, è fantastico. Aurora Lussana chiama tutti, anzi l'Aurora Lussana chiama tutti, il Prodi, il Fazio, la Luxuria, perché così è milanese, quindi va bene, dai. Grazie, sei stati con noi Aurora Lussana, direttrice capa della Padania, e Vladimir Luxuria, direttrice artistica al Gay Village a Roma. Noi ci fermiamo, c'è tempo per il giornale radio e poi la rassegna stampa con Sogghigni, tra poco. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, eccoci qua, sono le 7:19 minuti in punto in questo istante, siamo pronti a leggere i giornali. Prima vi ricordo il tema che approfondiremo oggi. Oggi avremo ospite Francesco Lizzani, che è il figlio del regista Carlo Lizzani, che si è tolto la vita qualche giorno fa, e lo ha fatto come 2 anni fa l'aveva fatto anche un altro grande regista, Mario Monicelli, e il figlio Francesco Lizzani ha lanciato un tema che di tanto in tanto spunta in questi casi e che ha suscitato anche un dibattito, vale a dire: mio padre è arrivato a togliersi la vita perché non poteva morire in modo dignitoso. Insomma, ha rilanciato il dibattito sul diritto all'eutanasia, un dibattito che viene di tanto in tanto affrontato quando ci sono questi fatti di cronaca e poi viene riaffossato. Oggi ne parleremo, sarà con noi Francesco Lizzani per l'appunto, ci sarà con noi anche Lucetta Scaraffia, che è docente di storia contemporanea all'Università La Sapienza e editorialista anche dell'Osservatore Romano, e di questo parleremo più avanti. Ora andiamo a vedere che cosa ci propongono i quotidiani che trovate in edicola. In questo lunedì 14 ottobre le aperture, intanto Il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì titola: società pubbliche senza freni, crescono ancora posti e spese. È un focus sulle 7.800, pensate, questo è il numero, società pubbliche che ci sono in Italia e crescono continuamente. Per il Corriere della Sera, tasse sulla casa si cambia, sono le anticipazioni sulla legge di stabilità che verrà approvata domani dal Consiglio dei Ministri, anche se il ministro Letta ha detto in un tweet anticipazioni che non hanno molto senso, scoprirete tutto domani cari italiani, ma certo le anticipazioni ci sono comunque. Poi il dibattito sull'amnistia, amnistia Renzi divide il PD, così apre Repubblica. Il Messaggero: indulto, scontro, governo Renzi. L'Unità: carceri, scontro, governo Renzi. Il Secolo XIX: indulto, rissa tra Renzi e il governo. Come vedete ognuno sceglie un suo termine, ma rissa, scontro, quello è. Il Quotidiano Nazionale: i ministri contro Renzi. La Stampa invece apre con un'intervista a Franceschini in prima pagina, senza tagli, niente sgravi, mentre il Giornale: basta Balzelli, no alla tassa Lampedusa. Oggi arrivano Marina e Aviazione nel canale di Sicilia. Il governo fa capire che presto ci chiederà altri soldi. Il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, invece apre su un focus, un reportage sulla TV. Il titolo è: la TV rottamata, annaspano trasmissioni che hanno accompagnato la nostra vita, dal Grande Fratello a Miss Italia, cronaca e talk. È insomma il tema di come cambia la visione della TV. Allora, io voglio partire dalla polemica che ancora oggi campeggia e sempre più sulla vicenda Erik Priebke, dopo la sua morte la scorsa settimana. Venerdì, ora la polemica è sui funerali, fare i funerali oppure no. Il Vaticano ha già detto di no, il sindaco di Roma ha detto di no. Ora l'avvocato di Erik Priebke, l'avvocato Giachini, dice: sono pronto a fare le esequie in strada. Ovviamente questo suscita nuovo dibattito. Sembra un pochino incredibile, cioè a me appare un po' incredibile questo dibattito di 2-3 pagine ancora oggi sui giornali, ma guardate che veramente almeno 2 pagine su ogni quotidiano è questo lo spazio che viene affidato a questa notizia. Per il Messaggero, a pagina 9, sotto l'articolo di Stella Prudente: il Vaticano conferma il suo no, troppe ferite ancora aperte. La posizione del vicariato è ferma, scrive il Messaggero. Le chiese di Roma non ospiteranno funerali pubblici di Erik Priebke. Le fonti che si sono susseguite a questo riguardo ieri confermavano senza se e senza ma la dichiarazione ufficiale di sabato con cui il portavoce Don Walter Insero aveva escluso per l'ex capitano SS qualsiasi celebrazione esequiale. Anche qui però il dibattito è un po' aperto. Per esempio Repubblica, con Paolo Rodari, il vaticanista, va a intervistare Monsignor Gianfranco Girotti, che dice: il funerale no, ma la benedizione alla salma al di fuori di un edificio ecclesiastico, anche ben lontano da telecamere e mezzi di informazione, e la conseguente sepoltura quale atto umano e pietoso, sì, anche il criminale Erik Priebke deve riceverle. La Chiesa, nonostante il passato di questa persona, deve arrivare fin qui ed essere misericordiosa. non parlerei mai di perdono, perché in questo caso Pripke prima di morire non lo ha chiesto, né sembra abbia mostrato pentimento, ma la misericordia è un'altra cosa, esiste per tutti gli uomini, anche per i peggiori criminali, del resto siamo tutti peccatori, chi più chi meno. Così dunque Monsignor Girotti dice no all'esequie, ma una benedizione. E vabbè, anche la stampa, due pagine, Pripke, esequie in strada, questa è la protesta, shock dell'avvocato. Il legale di Pripke lancia la sfida funerali in strada, così apre anche il giornale a pagina 14, mentre Massimo Cacciari, sindaco, sul Messaggero, viene intervistato e dice... È un dibattito macabro e perfino grottesco, intervistato da Alberto Guarnieri, proprio perché ritengo sia grottesco e macabro, lo ripeto, che si arrivi a discutere se seppellire o meno una persona. Beh, approfondiamo, chiede il Messaggero. No, semplifichiamo, siamo di fronte alla morte di un vecchio, lo si seppellisca, dice Cacciari. Qui non è in discussione il pentimento, tantomeno il perdono. Pripke è morto e che Dio ne abbia misericordia. Tutto qui? Beh, cosa vogliamo fare? Dare le sue spoglie in pasto agli avvoltoi? Ma lei che giudizio dà dell'uomo Pripke? Noi umani lo abbiamo già giustamente condannato. Dopo la morte sicuramente patirà all'inferno. Così Massimo Cacciari, sotto il tema di due pagine sul Messaggero, appunto, anche qui si apre con la notizia del legale che non si arrende, faremo i funerali a Villa Borghese. Anche il giornale intervista Monsignor Marcianò, lo fa Serena Sartini a pagina 15, dice: per il diritto canonico il rifiuto è giustificato. Vabbè, insomma, tante pagine su questo tema, i funerali di Ere Pripke. Mi ha molto colpito invece, cari giovani, io ho detto anche alle 6.30, lo ribadisco, se oggi un giovane di 25 anni, mi medesimo in lui o in lei, aprisse i giornali e vedesse le aperture sul dibattito all'interno del PD per la questione dell'amnistia e indulto, verrebbe da dire veramente qual è il primo paese pronto ad ospitarmi, ecco, e lo potrei anche capire. Effettivamente questo mi permette di dare, non un incentivo, ma cari giovani, leggete l'articolo del Corriere della Sera, pagina 27, quei 500 euro in più guadagnati da chi si laurea e va via. Molto impietosa come fotografia. Gli stipendi medi a 4 anni dal titolo di laurea, certificati dall'Istat, racconta Alessandra Dalmonte, sono 1.300 euro netti al mese per chi sta in Italia. Lo stipendio medio dei figli della crisi, giovani italiani che hanno finito gli studi universitari triennali, nel 2007 si sono immessi nel mondo del lavoro in concomitanza con l'inizio della recessione economica. La maggior parte di questi ragazzi ha trovato un posto, una piccola parte no, ma in generale i laureati italiani hanno pagato lo scotto della crisi più dei coetanei di altri paesi, perché a fronte di 1.300 euro netti al mese a 4 anni della laurea per chi si è laureato nel 2007... L'Istat invece, in questa ricerca curata da Carlo Barone, docente di sociologia all'Università di Trento, ha scoperto che il risultato per chi è andato all'estero a 4 anni dal titolo porta a 1.783 euro in media. Chi è rimasto in Italia, ripeto, ne guadagna 1.300. Certo, ci sono i distinguo. Nel nord Italia lo stipendio medio è di 1.374 euro. Al centro 1.306, nel sud 1.218. Le lauree sanitarie sono quelle più redditizie al nord e al centro, mentre al sud rende di più l'ingegneria informatica. Gli studi meno remunerativi al nord sono educazione, formazione e psicologia, mentre al centro e al sud si guadagna meno con le lettere in laurea, con le lauree in lettere, arte, lingua, storia e filosofia. Comunque la forbice poi va meglio agli uomini e va peggio alle donne. Ma il dato più significativo, Corriere della Sera, pagina 27, se vi siete laureati nel 2007, lo stipendio medio in Italia è di 1.300 e all'estero di quasi 1.783 euro. A proposito di stipendi, vi lascio con questo, perché so che vi farà contenti, vi farà felici, sarà anche un po' di qualunquismo, ma in realtà bisogna vedere poi sempre quanto comporta lo stipendio e quanto ci sono di entrate per l'azienda. Ieri per esempio Fabio Fazio e Brunetta, se li avete visti, sono un po' scornati su questo, ma la notizia sul giornale è di Maurizio Crozza. Per la verità la notizia non è nuova, ma Maurizio Crozza sarebbe pronto a passare proprio alla Rai, proprio nei giorni in cui inizia il suo nuovo show sulla 7. Ora Maurizio Crozza per andare in Rai ha 25 milioni di ragioni. Il passaggio dalla 7, racconta Laura Rio, è quasi pronto, forse se ne occuperà il CDA della Rai giovedì prossimo. Pagina 25 del giornale. Al comico andrà un compenso personale di 5 milioni di euro per 2 anni. 25 milioni è il costo totale della trasmissione. 5 andrebbero a Maurizio Crozza. Contenti? 24 mattino. E allora siamo qua alle 7:34 minuti, come detto il dibattito politico sui giornali si anima per due notizie, la politica per l'appunto in senso stretto, vale a dire il dibattito su amnistia e indulto con Renzi che ha fatto arrabbiare mezzo PD se non tre quarti, e poi la vicenda della legge di stabilità che per la verità è un'anticipazione di quello che ci sarà domani, la legge di stabilità verrà approvata in Consiglio dei Ministri. E, allora, iniziamo dalla questione amnistia e indulto perché ci sono più pagine, visto che sulla legge di stabilità ci sono indiscrezioni, ma tutto il resto bisognerà attendere appunto domani. Allora, il caso Renzi è il titolo che trovate sui giornali, abbiamo visto molti aprono su rissa, scontro, divisioni tra Renzi e il PD, perché Renzi ha detto la questione dell'amnistia e l'indulto così non va bene, cioè pone un problema di immagine, che immagine diamo, l'ha chiamata anche il bomba libera tutti, cioè il provvedimento di amnistia e indulto che non vuole perché la legalità è di sinistra e ci vuole certezza della pena. Una bomba però è anche la sua dichiarazione, come scrive sul Corriere della Sera Alessandro Trocino a pagina 2. Insomma, amnistia al caso Renzi, critiche dal governo, ma lui rilancia il no. Tra l'altro il Corriere della Sera fa una lunga analisi di Marzio Breda, che è quirinalista, quindi studia tutto quello che avviene all'interno del Quirinale, e in prima pagina amarezza di Napolitano per le critiche, tutti dovrebbero stare ai fatti, racconta Marzio Breda che ha passato il sabato a studiare tutta la vicenda della legge sulle migrazioni, alla fine ha anche chiamato ieri il sindaco, o meglio sabato, il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, dunque un capo dello Stato che si è tenuto più lontano dalle polemiche su amnistia e indulto. Continua poi l'articolo a pagina 3 di Marzio Breda, le cronache riportate dai giornali, repliche lui non ne fa, non vuole essere trascinato in un battibecco infinito con nessuno, per lui conta una cosa essenziale, una sola, che tutti stiano ai fatti, conta cioè che si ragioni sulle parole scritte e davvero pronunciate da lui stesso e che ci si prenda la briga di rileggersi tutto l'insieme con freddezza e onestà. I fatti sono questi, Napolitano vorrebbe che valessero per la bufera rinfocolata sui temi amnistia e indulto, perché lui, scrive il Corriere, non ha fatto alcun messaggio alle Camere per l'amnistia, ma un messaggio per la questione carceraria. Un avvertimento per segnalare che la sentenza dell'Unione Europea del 28 maggio 2013 ha messo l'Italia in mora e con la concreta prospettiva di una nuova condanna prima che passi un anno, se non si interverrà presto. Un altro fronte che a Napolitano ha fatto molto amarezza è la richiesta di impeachment da parte del Movimento 5 Stelle, ma scrive il Corriere, neppure a loro reagirà il presidente. Ridicolaggini, come quando sente sentenziare da qualcuno che lui avrebbe fatto un intervento a gamba tesa sul Parlamento, senza conoscere il penultimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, dove il messaggio alle Camere è configurato come potere formale del presidente della Repubblica. E di sicuro chi lo abbia letto non può azzardare ipotesi di gamba tesa. L'atteggiamento dunque è di amaro distacco, conclude il Corriere, come di chi pensa: benissimo, mettano in moto il procedimento se sanno come lo si mette in moto e come è regolato, e poi il Parlamento deciderà. Questa dunque è la sensazione di Napolitano, ma il conflitto all'interno del PD è davvero intenso, almeno come dichiarazioni. C'è da dire che è interessante il retroscena di Claudio Tito in prima pagina di Repubblica. Il titolo è questo: attenti, il partito la pensa come me. Un retroscena che va a cercare di capire qual è l'umore del giorno dopo di Matteo Renzi. Ebbene, l'umore del giorno dopo è quello di chi dice: guardate che dentro il PD la pensano tutti come me. Pochi giorni fa ho incontrato un gruppo di ragazzi e mi hanno detto esattamente questo: fare un indulto ogni 7 anni è come Berlusconi che faceva un condono ogni 2 anni. Matteo Renzi sta disegnando la sua roadmap verso il congresso, vuole arrivare alle primarie dell'8 dicembre imponendo i suoi temi, ed ecco che dice Claudio Tito nell'articolo che poi continua a pagina 3: è sicuro di aver fatto la mossa giusta, non è andare contro il capo dello Stato ma dire che non può essere lui a stabilire cosa fare, ascoltiamo i suoi consigli e poi decidiamo da soli. E racconta tra l'altro i suoi temi: il prossimo sarà la scuola, questa anticipazione di Repubblica. Da qui all'8 dicembre Renzi intende cadenzare la sua roadmap e dopo la riforma elettorale, quindi prima la giustizia, poi riforma elettorale, poi toccherà la scuola con la parola d'ordine abolire la riforma Gelmini, ossia uno dei capisaldi dell'ultimo governo Berlusconi. Anche per il giornale Renzi spara in alto e guerra nel PD, c'è anche lo scontro con Zanonato che l'ha paragonato in qualche modo a Beppe Grillo, è stato uno dei più duri Zanonato a criticarlo. Risponde un altro dei candidati alla segreteria del PD, Gianni Cooper, l'ho intervistato all'Unità, pagina 3, sui diritti umani, dice: è sbagliato inseguire i sondaggi sulla dignità delle persone, sui diritti umani non si possono inseguire i sondaggi. Così Gianni Cooper, che dice: non mi sono piaciute le uscite di Renzi contro il messaggio di Napolitano su amnistia e indulto, visto che il capo dello Stato ha posto un problema di sopravvivenza e dignità che riguarda migliaia di persone detenute nelle nostre carceri. Così Cooperlo, intervistato da Simone Collini sull'Unità. Dall'altra parte invece il PDL è in una situazione di, come dire, di stand by, nel senso che Silvio Berlusconi è stato molto chiaro, lo si legge oggi dai giornali, è state zitti, questo ai suoi. Le parole gli scontri, le parole di sfida all'interno del Popolo della Libertà non sono piaciute a Silvio Berlusconi. L'appello del Cavaliere al PDL: basta polemiche improduttive. Così Lorenzo Fuccaro a pagina 5 del Corriere della Sera, anche se di spalla c'è un articolo, un'intervista a Fabrizio Cicchitto che insiste, respinge l'accusa di essere un traditore, intervistato sempre da Fuccaro, dice: o c'è un binomio Berlusconi-Alfano oppure bisogna andare in una direzione di fare due partiti. Sta di fatto che anche sulla stampa Silvio Berlusconi, nel retroscena di Ugo Magri, dice: Berlusconi ai suoi state zitti. È un Berlusconi che tra l'altro in privato ha anche definito Matteo Renzi, e da più tempo, da un po' di tempo lo definisce così, semplicemente un battutista. Forse sono finiti anche i tempi in cui andavano più o meno d'accordo, c'era una sorta di sintonia sulla quale si è detto e si è scritto molto. Ora invece lo definisce imbattutista, un battutista, racconta Ugo Magri a pagina 3 della stampa. Semmai Letta teme di più, non è tanto Renzi quello che teme, ma Letta considerato più solido, questo dal punto di vista politico. Anche per Repubblica: Berlusconi stoppa primarie congresso, non pensiate che io sia finito. E ad Alfano e a Fitto ho detto: sono stufo di questa guerra all'interno del partito. Vabbè, questa è la politica, mentre domani c'è l'attesa grande per la legge di stabilità. Alcune anticipazioni ci sono sui giornali. A questo proposito voglio salutare Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, buona settimana. Eccoci qua. Buongiorno anche a te, a tutti quanti. Allora, tra poco le vedremo, soprattutto il Corriere della Sera, da qualche anticipazione su service tax, eccetera. Certo, Enrico Letta ha detto: i giornali sono a caccia di indiscrezioni spacciate per fatti sulla legge di stabilità. Mauro, cosa ci aspetta domani e cosa c'è oggi intanto sul Sole 24 Ore? Beh, adesso senza pretendere di dare dei numeri finali o definitivi, specialmente sul taglio al cuneo, che qui viaggiamo come sai tra i 2, i 5 e addirittura i 10 miliardi, noi però presentiamo una serie di cose che mi sembrano abbastanza solide, che sono quelle sulle pensioni, perché andiamo di nuovo a toccacciare le pensioni. Ci dovrebbero essere delle misure importanti, lo riferiamo nella pagina 5 del nostro giornale, e già dalla prima pagina Spieghiamo come ci sarà probabilmente questa misura di possibile anticipo della pensione per chi perde il lavoro e non ha, come dire, altre forme di provvidenza, di sostegno. E poi noi inauguriamo questa settimana 7 giorni dedicati alle questioni del lavoro, che come sai sono poi il grande tormento che si lega alla manovra. E tra l'altro ti segnalo e vi segnalo questo lavoro molto bello di Chiara Bussi sui collaboratori. I collaboratori sono diminuiti per effetto della crisi naturalmente, ma anche per, ohimè, l'effetto che non è stato felice della riforma Fornero. Quindi abbiamo avuto un calo nei giovani, che chiamiamo con una brutta sigla Coco Pro, 12% in un anno. Scusami, il lavoro è di Francesca Barbieri, chiedo scusa alla collega naturalmente. E, tra l'altro lì è preoccupante perché sono proprio gli under 30 quelli che soffrono di più, sia come perdita del contratto, sia come reddito, che è molto molto basso. È un problema che ci stiamo scavando per il futuro, questo qui, vorrei che fosse ben chiaro. No, ma è chiaro, infatti tutti i sentori ci sono e anche i dati statistici sono ben chiari su questo. Tra l'altro lo segnalo io, insieme a te Mauro, c'è anche questo dato delle società pubbliche che mi ha molto colpito in prima pagina, vale a dire 7.800 aziende censite, come racconta Antonello Cherchi a pagina 3, e continuano a crescere e molto, molto spesso sono anche con bilanci non in attivo, diciamo così, un eufemismo, no Mauro? È una battuta facile, però quando tu vedi appunto nella nostra pagina 3, nel lavoro di Cherchi, che ci sono qualcosa come 19.000 posti di consigliere tra consorzi e società pubbliche, piuttosto che società pubbliche con 50 o più di 50 consiglieri, ma insomma ti chiedi se davvero ci sia tutto sto bisogno di vertici, di uomini. Per chi vertici siede lì, sì, sappiamo spesso chi ci finisce, insomma, i cosiddetti, ecco, no? Alberto Orioli firma un editoriale molto bello, se puoi leggerne dei tratti direi che dice tutto, insomma, parla di come questi siano posti comodi, ecco, dove sistemare anche delle persone. È sbagliato generalizzare. No, è chiaro, però spesso sono i cosiddetti posti per i trombati della politica. Non tutti, ma non tutti. Non 56 tutti. Consiglieri, mi sembra di aver visto come record assoluto. E direi che sono tanti. Sicuramente il servizio reso è importante, però ecco, è assistito da un ottimo vertice, da un vertice sicuramente molto nutrito. Questo certamente. Grazie allora a Mauro Meazza, ti ritroviamo domani, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi appunto la legge di stabilità come la raccontano, la anticipano i giornali su domani. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Siamo qui allora a parlare della legge di stabilità che domani verrà approvata dal governo. C'è il tweet di Enrico Letta, ieri il Presidente del Consiglio ha twittato questo messaggio un po' a tutti i giornali a caccia di indiscrezioni spacciate per fatti sulla legge di stabilità. Invito a leggere il testo vero dal Consiglio dei Ministri martedì, il resto è solo caos. Sta di fatto che anticipazioni ce ne sono. Oggi il Corriere, meno tasse solo per chi assume, service tax all'ipotesi 3 per 1000. Dunque, premessa, stiamo leggendo possibili anticipazioni, cioè sono anticipazioni, quindi possibili novità della legge di stabilità. Il Corriere con Roberto Bagnoli da questo rush finale sulla service tax, il nodo è l'aliquota massima che secondo anticipazioni dovrebbe essere del 3 per 1000 o 30 centesimi di euro al metro quadro. Mentre per quel che riguarda il cuneo fiscale, che è un punto centrale della legge di stabilità, al momento viene ipotizzato un taglio del cuneo a favore di imprese e lavoratori per 5 miliardi nel 2014 e altrettanti nel biennio successivo, però dovrebbe essere utilizzata una manovra non a favore di tutte le aziende, ma quindi a pioggia, ma solo per quelle che investono o assumono. Poi il tanto contestato aumento dal 21 al 22 dell'IVA potrebbe rientrare nell'ambito di una rivisitazione delle attuali tre aliquote, 4, 10 e 22, con la creazione di una quarta aliquota al 7%, nella quale far confluire alcuni beni del 4 e alcuni del 10, fare una sorta di media e mettere alcuni beni al 4% dell'IVA attualmente e alcuni del 10, creando l'IVA al 7. Ripeto, sono tutte anticipazioni. Intanto non c'è ancora la legge di stabilità, ma Susanna Camusso, pagina 6 di Repubblica, intervistata da Roberto Mania, chiede più tasse su bot e rendite finanziarie per appesantire la busta paga dei lavoratori dipendenti. se fossero confermate le indiscrezioni, si muoverebbero in continuità con le due precedenti leggi di stabilità. Invece ci vuole un cambiamento di politica economica, dice Camusso. Io penso ci voglia un'altra legge di stabilità. Non si può continuare a non scegliere avendo poche risorse. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe spostare i pesi e non limitarsi a distribuire ciò che c'è. E dunque pensiamo che le rendite finanziarie non possano più essere tassate al 20%, mentre il resto dell'Europa il prelievo parte dal 25% in su. Spostiamolo anche noi almeno al 25%, così chiede Susanna Camusso, mentre sui bot si paga ancora il 12,5%, mentre nel resto del mondo siamo al 20%. E il 90% dei bot è in mano alle banche. Non raccontiamo un mondo che non c'è. Ecco, la solita ricetta, nuove tasse. Ma non è una mia considerazione, è anche a un certo punto la domanda che Roberto Mania fa a Susanna Camusso. No, non sono nuove tasse, è una diversa distribuzione della tassazione. Vabbè, questa è geniale. Per Susanna Camusso non sono nuove tasse, ma è una diversa distribuzione della tassazione, perché si tassano di più le rendite finanziarie e i bot per dare più soldi ai dipendenti in busta paga. Quindi non è più tasse, ma una nuova distribuzione delle tasse, una tassazione un po' più creativa. In tutto questo ci sono anche articoli su Lampedusa. Vi voglio segnalare solo questo: da oggi sono pronti 1500 uomini militari alla San Marco per la missione contro gli scafisti. Tutti i dettagli li trovate specificati nell'articolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 18 del Corriere della Sera. Rinforzi già predisposti, 1500 uomini, le forze in campo con tutte le navi che sono anche fotografate, i velivoli, insomma cercare di fare una sorta di scudo e di protezione agli scafisti. C'è interessante anche l'intervista che Vincenzo Nigro su Repubblica fa al primo ministro libico Ali Zeidan, che è stato rapito per qualche ora nei giorni scorsi, e che dice: ho detto che noi in Libia facciamo quello che possiamo. Il paese è in condizioni difficili, ma abbiamo bisogno del sostegno europeo per il controllo delle frontiere. Ve la traduco io: chiedono soldi. Questa è l'intervista che trovate. Fermare gli immigrati è impossibile, l'Europa ci aiuti a controllare le frontiere. Il premier libico Zeidan: qui è il caos, l'Italia non ci abbandoni. Pagina 15 di Repubblica, ripeto, la traduzione è molto chiara: dateci soldi. Chiudo con l'immarcescibile, nonostante l'ascoltatrice, premio della rassegna stampa più ambito, premio più ambito, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi siamo all'edizione del Fatto Quotidiano, edizione del lunedì, dove ben due pagine, non una, non mezza pagina, due pagine sono dedicate al tema di New York. Dimmi che cane hai e ti dirò chi sei. La mappa di come sono diffusi il 1,5 milioni di cani a New York in base alla razza. E allora Giulia Zaccariello ci fa sapere che nell'Upper East Side, dove ci sono i ricconi, spopolano gli Shih Tzu come tipo di cani, oppure quelli acconciati con un fiocco rosa in testa, per intendersi, scrive il Fatto. Oppure se siete di Staten Island, prevalgono lì lo Yorkshire e si tende a chiamarlo Lola se è femmina e Max se è maschio. Oppure se invece siete dell'East Harlem, spopolano lì il Chihuahua, chissà perché, perché ci sono molti immigrati e quindi Chihuahua, il Messico, Chihuahua. E poi nel Bronx ci sono una modesta diffusione di pitbull, cani di media taglia, ma anche i cani maltesi, cioè a Brooklyn un cane, a Staten Island un altro cane, a Queens un'altra razza. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Due pagine sui giornali. Vabbè, sul Fatto Quotidiano non se lo ricordano. La carta costa. 24 mattino. Quando sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Beh, è un tema molto molto delicato e anche profondo, se volete. Oggi parliamo di questo, della vicenda del regista Carlo Lizzani. Ha lasciato un biglietto con la sua calligrafia frettolosa con sopra scritto «Ho staccato la chiave» e poi si è tolto la vita, questo una settimana fa. Lo si potrebbe certo derubricare a un caso di cronaca, terribile, pietoso, punto e basta, come la vicenda simile nella sua tragicità di un paio di anni fa, anche di Mario Monicelli, altro regista che si è tolto la vita praticamente allo stesso modo. Lo si potrebbe appunto derubricare a notizia di cronaca, ma il figlio di Carlo Lizzani, Francesco, dopo la morte del padre ha posto un tema su cui si dibatte da anni, e poi si sa come se vanno queste cose in Italia, se ne dibatte magari un paio di giorni e poi fino al prossimo episodio di cronaca non se ne dibatte più. Ebbene, il figlio del regista Lizzani dice: mio padre da tempo parlava della necessità di poter morire in dignità, e sosteneva che le associazioni che si battono su questi temi anche erano da lui sostenute finanziariamente. Certo, poteva chiaramente andare all'estero, ci sono paesi, ne abbiamo parlato qui anche altre volte in passato, come la Svizzera, dove si può fare questo, ma dice Francesco Lizzani, forse è il caso che si possa fare tutto questo anche in Italia. È davvero così? È questo il caso? E che ne pensate? Invito anche gli ascoltatori, se volete aggiungervi a questo viaggio, a questo tema molto intenso, molto delicato. 800 24 00 24. Voglio salutare Francesco Lizzani, il figlio di Carlo. Buongiorno e benvenuto, e grazie. Buongiorno, per essere grazie. Con noi. Voglio salutare con lei la professoressa Lucetta Scaraffia, che spesso è un, posso dire professoressa, un lume anche che noi cerchiamo su alcune tematiche molto profonde. È docente alla Sapienza di Roma, editorialista dell'Osservatore Romano. Buongiorno. Buongiorno. Qua. Allora, Francesco Lizzani, lei ha posto questo tema in maniera molto, molto chiara. Suo padre faceva questo tipo di richiesta, cioè poneva questo problema: che paese è quello in cui non si può porre fine alla propria vita in dignità? Ed è giusto usare questo termine, dignità? Guardi, direi che non faceva una richiesta in termini così espliciti, metodici. Rientrava nella sua, diciamo, apertura laica, visione della vita, e nella contingenza delle sue condizioni fisiche ha fatto cenno così en passant, diciamo, a questa ipotesi, ma in modo tale da non lasciar prevedere minimamente poi un esito del genere. Quindi, diciamo, non stabilirei un nesso causale diretto tra questo che io definisco un vuoto legislativo e il suo atto, insomma. Altrimenti avremmo in qualche modo potuto anche prevederlo. Ecco, io ho fatto un discorso aggiuntivo, direi, che mi sono forse un po' a gamba tesa inserito nel momento in cui mi sono trovato sotto assedio, sotto casa, insomma, giornalisti, telecamere, eccetera. Ho forse fatto un contropiede mediatico, credendo non di sovrapporre le mie idee alle sue assolutamente, ma riproponendo questo tema, e direi in una chiave che a me sembra molto, molto semplice, perché poi i fatti sono più duri delle idee, in un certo senso. E se mi posso esprimere questo concetto molto semplice, è il seguente, ovvero che tutte le normative, tra virgolette, proibizionistiche hanno un fatto che in comune, cioè che producono l'effetto contrario di quello che in realtà disciplinano in modo, ecco, censorio. Nel senso, io mi sono posto il problema: ma se una persona, diciamo, si ponesse il problema del proprio suicidio e lo potesse fare in qualche modo, ma non sarebbe questo un deterrente? Cioè, voglio dire, organizzare un suicidio significa poi fare delle operazioni. Lei effettivamente l'ha posto questo problema dicendo: se mio padre avesse avuto questa possibilità, probabilmente sarebbe paradossalmente stato un motivo per non farlo, cioè, no? Sì, si può dilazionare, dice: dai, lo possiamo fare subito, facciamolo domani, vabbè, pensiamoci ancora, prendiamoci un caffè, ragioniamo, vediamo, socializziamo, comunichiamo questa idea. Poi naturalmente questo non risolve, voglio dire, cioè, anche in questo caso uno può fare il gesto, così è una forse, appunto, una possibilità. un possibile approccio pratico al problema, oltre a naturalmente a tutte le implicazioni etiche eccetera di cui sappiamo e che su cui tutti la pensiamo in certo modo... lei ha avuto modo di leggere, non so se chiaramente eravate impegnati in altre cose, ma ha avuto modo di leggere i giorni successivi, poi ci si è divisi sui giornali, il cattolico, il laico, per esempio sul giornale Vittorio Feltri dice una cosa mentre Carzan cattolico dice un'altra, no, la vita è un bene indisponibile perché è dato da Dio, ha avuto modo di capire come si è evoluto poi questo dibattito? Ma francamente si è voluto forse più all'italiana che altro, nel senso sì, si è un paese che vive di dibattiti e poi è un paese a mio parere molto condizionato storicamente da una presenza che conosciamo, insomma, ecco, in cui l'elemento cattolico non è semplicemente una posizione, come dire, all'interno di un contesto, è una monocultura dominante anche nel cosiddetto mondo laico, un mondo laico sostanzialmente passivo, a mio parere non cosciente della propria responsabilità. Ecco, anche nel funerale laico che ho voluto in qualche modo, che abbiamo voluto condurre per mio padre, ho voluto dare una dimostrazione di che cos'è la laicità, è qualcosa di inclusivo, non di esclusivo. La presenza a cui si riferisce, immagino, posso dire io, interpretare il Vaticano, insomma, mi sembra di capire. No, beh, sì, il Vaticano è una presenza politica in Italia. No, lo dico perché chiaramente la prima considerazione che voglio chiedere alla professoressa Scaraffi è proprio a partire da questo punto. Professoressa, lei vuole partire dalla coda, se vuole, cioè la presenza anche del Vaticano, di una monocultura cattolica, in qualche modo inficia questo dibattito? Sì, ne parlerò immediatamente. Io però volevo solo dire che intanto mi dispiace molto quel che è successo e che mi trovo anche in grandi difficoltà a discutere con una persona come il signor Lizzani, che ha sofferto recentemente non solo per la morte del padre ma per il suicidio del padre, che è qualcosa che mette le persone in una situazione drammatica, i figli. Quindi io capisco benissimo che il suo discorso non possa essere un discorso, diciamo così, distaccato e un contributo ad un dibattito che per forza, se c'è, deve essere fatto in modo, non può essere fatto a caldo, deve essere fatto a freddo, cioè non sotto la spinta di un caso che ci ha coinvolti personalmente. Volevo anche dire che quando dice questo paese che non ha la legge che consenta appunto la morte assistita, questa scagliarsi contro il nostro paese, guardi che la possibilità, diciamo, per una persona come suo padre di avere la morte assistita c'è solo in Svizzera, in tutto il mondo, cioè con queste associazioni Dignitas, così, con dei problemi che adesso non vorrei toccare, che sono però nati recentemente e sono stati resi noti recentemente dai giornali, ma tutti gli altri paesi i casi di eutanasia sono riservati solamente a persone che sono in coma, che diciamo hanno una morte molto rallentata e quindi vorrebbero abbreviare questo tipo di morte, ma non è, o delle sofferenze, cioè non in casi di persone che stanno, sì, a parte la vecchiaia, relativamente bene. Quindi già quello, diciamo, che non è un discorso che non è fondato sulla realtà. Per quanto riguarda invece la presenza dei cattolici, io vorrei dire che l'influenza dei cattolici in Italia è legata alla democrazia, cioè non è che il Vaticano sia lì cattivo con la pistola puntata. Se i partiti politici fanno così attenzione al parere dei cattolici, non è perché sono vittime, culturalmente vittime dei cattolici. È perché paga dal punto di vista… Pensano, adesso io non so se è ancora vero, ma pensano che paghi dal punto di vista politico. Quindi questa è la democrazia, non c'è niente da fare. Se molti italiani, nonostante che non vadano più a messa, perché ormai lei sa che gli italiani vanno a messa in minuscole proprio proporzioni, però ritengono che almeno su una questione come la morte la Chiesa abbia ancora qualcosa da dire, cioè lo ritengono. Seguono questo. Effettivamente, Lizzani, che ne pensa? Cioè, è una questione proprio di rappresentanza democratica, dice la professoressa Scaraffia. Gli italiani pensano così, non è che si può, tra virgolette, demolire, uso questa parola, una cultura. No, ma io ripeto, stavo dicendo che nel funerale laico che abbiamo fatto in Campidoglio, abbiamo voluto inserire come fondamentale una parola religiosa. Ecco, questo è il senso della laicità di cui parlo io, cioè una laicità che si richiama addirittura alla Repubblica Romana del 1849, forse una Costituzione più, perfino più giovane, anche se più antica della nostra, che è una Costituzione dove ancora esiste un istituto che si chiama Concordato. Ma a parte questo e a parte il fatto che ritengo di non parlare a caldo, ma di fare dei ragionamenti che avrei fatto prima di questo evento, non ho intenzione qui di fare una polemica, sto diciamo aprendo un dibattito, un posto, no, infatti, diciamo, in un discorso pubblico su cui ho delle idee che non sono di oggi o di ieri. Quanto alla questione della Svizzera, sì, è vero, la Svizzera è l'unico paese che fa questo, soprattutto è l'unico che lo fa per dei cittadini stranieri, ecco, questo è l'altro elemento che tuttavia ci esistono, insomma, dispositivi legislativi che hanno depenalizzato perfino forme di su cui io non entro adesso in merito, perché non sono né un esperto del settore né un difensore di questa, come dire, crociata tra virgolette della morte che si vuole in qualche modo attribuire a chi no, chiaro, lei ne fa più un dibattito puntandola sulla forme di depenalizzazione, sì. Esistono forme, il fatto che abbia fatto riferimento a questa ricchezza democratica in cui credo anch'io perché conosco la storia e so pure molto bene che tra gli ostacoli che il cattolicesimo popolare nella storia ha avuto in Italia c'è stato anche il Vaticano, come dimostra la storia di Don Sturzo e di altri, quindi voglio dire Romolo Murri eccetera, quindi non è che non so, diciamo, come dire, che esiste un contesto, semplicemente certamente penso che l'Italia sia un paese dove questi temi in generale, dato l'aggressione che c'è stata da parte non dei cattolici, del mondo politico che pretende di rappresentare i cattolici, ci sono state forme di aggressione che io definisco veramente delle bestemmie nei confronti del dramma di Eluana, ecco, tutto questo non lo attribuisco ai cattolici. No, è chiaro, però dice inficia il dibattito. Facciamo così, ripartiamo tra pochi istanti dopo la pubblicità. Siamo appunto con Francesco Lizzani, il figlio del regista Carlo, che è morto suicida, e con la professoressa Lucetta Scaraffia per parlare di questi temi molto molto profondi. Per esempio, uno dei temi sui quali battono molti cattolici è questo: la vita è un bene indisponibile dato da Dio e quindi non è competenza o nelle possibilità o nella potenza dell'uomo di porre fine a questo. Ovviamente ribattono per esempio i laici o addirittura gli atei, questo dovrebbe valere solo per chi crede e quindi c'è una limitazione della libertà invece per chi non crede in questa cosa. Ripartiamo da questo tema. 800 24 00 24, se volete dire anche voi qualcosa, cari ascoltatori. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:38 minuti, riprendiamo con noi Francesco Lizzani, figlio del regista morto suicida la scorsa settimana, Carlo Lizzani, e con noi la professoressa Scaraffia. Professoressa, prima di arrivare a lei, sul tema che ho lanciato, cioè la indisponibilità secondo i cattolici del dono del bene vita anche nel poterne porre fine, vorrei sentire se sono rapidi gentilmente due ascoltatori. Ci ha chiamato Giorgio da Latina. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Milan. Okay. Io ho conosciuto Lizzani anche perché lui è stato presidente onorario del Fondi Film Festival, Fondi è una località vicino Latina. Certo. Ora, io sono assolutamente d'accordo su questo gesto, che non è semplicemente... Beh, d'accordo sul gesto, poi sa, il gesto è molto personale. Più che altro, scusi Giorgio, d'accordo sul dibattito che ne è scaturito. Sì. Cioè sul dibattito che è ora, sarebbe ora che si apra. Comunque volevo appunto dire che su questa questione basta citare uno dei nostri più grandi poeti, Leopardi, nel famoso dialogo di Porfirio e Plotino. Leopardi è molto chiaro. Lui, Leopardi, non è che inciti al suicidio, però lo giustifica. Infatti, quando Plotino dice che uccidersi di propria mano senza necessità è contro natura, Leopardi risponde che a questo punto lui non è assolutamente d'accordo, perché lui dice che in realtà se la natura ovviamente ti offende, a questo punto non è più un agire contro natura. Comunque quindi, il problema non è solo quello della natura, è più ampio, perché Leopardi fa capire che quando una società è talmente incancrenita, talmente malata, a un certo punto, e in questo discorso rientra anche l'accanimento terapeutico, a un certo punto si ha il diritto di scegliere. Lei ne pone come diritto di scelta. Allora, prima di andare a un altro ascoltatore, professoressa Scaraffia, abbiamo detto tante cose. Mi risponda prima alla questione del bene vita per i credenti indisponibile all'uomo. E gli atei e gli agnostici dicono intanto non è così. Ma forse anche chi crede dice va bene, lo è, ma la mia limitazione alla libertà dove può arrivare? Allora? Ma guardi, intanto vorrei farle presente che l'idea che la vita sia un bene indisponibile non è solo dei credenti. La dichiarazione dei diritti dell'uomo firmata nel 1948 prevede nel suo primo articolo che la vita sia indisponibile, perché se è disponibile a tutti, non so come, non si può mettere un limite dicendo è disponibile solo in queste situazioni o solo in quelle altre. Anche la libertà però è un diritto. La libertà infatti è il suicidio, si può fare, mica è stato il suicidio è antichissimo come antico l'uomo, e il suicidio c'è sempre stato, nessuno, qui non stiamo discutendo del suicidio, il suicidio ovviamente, come anche dice Leopardi, esiste nella natura. E dice, stiamo discutendo del fatto che uno Stato debba in qualche modo garantire. Beh, lo che Stato questo... non deve garantire, lo Stato deve garantire l'indisponibilità della vita umana, perché deve proteggere i suoi cittadini da indebite intromissioni sulla loro vita, quello deve fare. Poi il problema dell'eutanasia, il problema politico-giuridico dell'eutanasia, scusi, io faccio parte del Comitato Nazionale di Bioetica, lei non l'ha detto prima, lo dico perché ho ben presente la situazione giuridico, anche etica della situazione. Non è quello che voi, cioè qui c'è una, nella discussione che stiamo facendo c'è una grande confusione fra suicidio ed eutanasia. Il problema dell'eutanasia si pone solo nel caso di quello che viene chiamato accanimento terapeutico, cioè di condizioni mediche che tengono artificialmente in vita esseri umani che senza queste interventi medici sarebbero già morti. Certo. Questo è il caso dell'eutanasia. Ora, mi sembra che non c'entri nulla col suicidio. Guarda, il dibattito sull'eutanasia in realtà, che è un dibattito che non c'è questo in Italia, invece è che secondo molti ci dovrebbe essere proprio la libertà di poter porre in maniera anche in maniera dignitosa alla fine della propria vita, perché uno ha deciso così. Lei dice quella libertà, mi scusi, è come il professor Veronesi dice in un'intervista alla stampa la scorsa settimana, che dobbiamo dire a una persona che si vuol togliere la vita? Dobbiamo dire comprati una corda o apri la finestra, non ci sono altre alternative. E Veronesi dice che Stato è uno Stato che dà questa sola risposta. Non ho capito, deve pure assistere la gente se si suicida, cioè abbiamo tantissimi problemi, lo Stato è bene che si occupi dei suoi cittadini in positivo, cioè impedendo che la loro vita diventi disponibile a delle forze avverse che possono intervenire danneggiandolo, lo Stato deve intervenire per curare la salute dei cittadini, ma non può intervenire per garantire che vengano al mondo, cioè non può garantire che ci sia una fine vita perché una persona lo stabilisce. È una cosa che non c'entra, non ha nulla a che vedere con i doveri dello Stato. Faccio presente che l'unico paese che prevede questo è la Svizzera. Sì, infatti, come... ed è molto discusso adesso, e anche ci sono stati molti reportage, anche uno alla televisione ha fatto molto bello sulla drammaticità di questa situazione svizzera. No, ma certamente, ma il tema è non è uno scherzetto, ma è chiaro, neanche la cosa svizzera. Lizzani su questo vuole replicare alla professoressa Scaraffia. No, è vero che nel corso di una trasmissione radiofonica con questi tempi e con queste urgenze si fanno delle inevitabili confusioni, insomma è chiaro che eutanasia e suicidio assistito sono due cose molto diverse, mi pare anche confuso confondere l'idea dello Stato l'idea che c'è stato un passaggio in cui la professoressa ha configurato questa possibilità come un'intrusione nella vita di un soggetto l'intrusione del soggetto stesso nel soggetto, si parla di questo, questo è il suicidio. Quindi va bene, naturalmente non possiamo, credo, progredire oltre un certo confine su questo terreno, perché abbiamo capito che abbiamo posizioni diverse, ma ci tenevo invece a riprendere il discorso dell'ascoltatore, perché lui ha citato il dialogo di Plotino e Porfirio. Beh, ma la grandezza di quel dialogo sta nel fatto che a un certo punto Plotino, anzi Porfirio, dice a Plotino, quando lui ha manifestato la sua intenzione così chiaramente determinata alla morte, dice: ma c'è un unico punto che non di cui non tieni conto, e gli altri? Il vuoto che tu lasci, il dolore che tu crei. Ecco, è proprio questa la grandezza del dialogo di Leopardi, cioè che nel momento che il dialogo finisce per rovesciare la posizione e l'intenzione di Plotino, nel senso che di fronte al dolore degli altri si configura, come dire, una sorta di snaturamento della dimensione relazionale dell'uomo, che spinge il grande filosofo a riconsiderare il suo gesto e a rinunciare alla sua autodeterminazione, se vogliamo. Ecco, in qualche modo il discorso che faccio io forse può avvicinarsi a questo, nel senso che se ci fosse una, ripeto, possibilità che esiste almeno in uno Stato al mondo, va bene, è uno Stato, non è uno Stato tirannico, è uno Stato dove esiste, e non è un caso che sia uno Stato pluriconfessionale, federale, di quel tipo, perché non vorrei aprire un altro file, sì. Ma su questa posizione, ripeto, sempre per la questione della monocultura italiana, ma in Germania le chiese evangeliche non hanno una posizione di questo tipo, per esempio, no? Di scomunica o di censura, c'è una considerazione anche dal diversa. Punto di vista religioso di questo, e non una posizione. Quindi voglio dire, io facevo un discorso quando parlavo anche di grandi fondi culturali in cui si muovono le idee, su una situazione italiana che mi sembra oggettivamente diversa ben, insomma, che il professor Veronesi ha rappresentato anche da un punto di vista più autorevole del mio. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi l'ultima parte di 24 mattino. Eccoci qui alle 8:49 minuti, vorrei sentire un paio di ascoltatori. Giovanni da Bologna. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Dico. Allora, un pensiero molto molto sintetico. Io vedo sia la vita che la morte come due punti cardine, perché sono ovviamente le uniche due cose che abbiamo certe. È certo che nasciamo ed è certo che moriamo. E quindi dobbiamo provare un grosso rispetto sia per l'una che per l'altra. Quindi se uno Stato, se un singolo individuo non è giusto, non ha il diritto di dare la morte a una persona, non vedo perché uno Stato o un singolo debba costringere una persona a vivere. Non mi sembra equiparato. Ma infatti guardi che Giovanni, il problema, come diceva la professoressa Scarafia, nessuno obbliga nessuno a vivere. Quello che professoressa le diceva è: non vedo perché uno Stato si debba occupare di un aspetto così intimo e privato della fine vita di un soggetto, no? Della protezione della nostra vita, cercando di proteggerci con le forze dell'ordine, e quindi dovrebbe cercare di proteggere la nostra singola decisione di non volere più la vita. Professoressa? Sì, ma mi sembra una concezione dello Stato, diciamo così, che dire una grande mamma buona, ecco, lo Stato non è una grande mamma buona che si deve occupare a rendere più facile la vita ai cittadini. Lo Stato ha dei compiti complessi, anche molto complessi, che riguardano proprio la Costituzione, le leggi. Per esempio, c'è sottesa tutta questa discussione, c'è l'idea che un essere umano del tutto liberamente possa decidere di vivere o di morire. Ora, tutti noi sappiamo che siamo invece dentro una rete di rapporti, di condizioni di vita, di tante, diciamo, pressioni di vario genere. Ora, se lo Stato potesse aiutare a morire chi lo vuole, ci sono tante persone che magari chiederebbero di morire perché pensano di essere di peso alla famiglia, perché cioè diventerebbe quasi un obbligo, non so, per una persona anziana che vede che i suoi familiari fanno fatica ad assisterla perché è malata, perché pensa che costa molto sotto la sua assistenza allo Stato, cioè diventa una situazione quasi come ricattatoria nei confronti di alcune persone. Cioè noi o abbiamo un concetto molto chiaro, che è quello che la vita umana è indisponibile e dà valore in qualsiasi modo venga vissuta, oppure cominciamo a pensare che ci sono delle vite che valgono di più e delle vite che valgono di meno, e quando la vita umana non ha più valore, non è più un valore per una persona, è bene eliminarla. Questa è una concezione. Questa è un'esasperazione, diciamo. Sì, però è quello che sta dietro a questo tipo di ragionamento. Allora, a questo punto, anche se è la persona stessa che lo decide, ma non è vero che lo decide in totale libertà, lo decide sempre all'interno di una condizione di vita e di una rete di rapporti. Io vorrei chiedere a questo, lei Francesco Lizzani, da tutto questo dibattito, poi come sai in Italia appunto come si dice 2 o 3 giorni poi non se ne parla più, poi magari se ne riparlerà per altri 2 o 3 giorni, lei cosa chiederebbe alle istituzioni in maniera concreta su questo tema così delicato? No, io non chiederei, capisco il problema che ha sollevato la professoressa, che effettivamente non è facile da risolvere, non è facile da risolvere, perché ma io non ho una soluzione. Io penso che ho tentato anche di rimanere sul piano delle considerazioni culturali di fondo di un paese dove questo si colloca insieme a tanti altri elementi, diciamo, di scarsa, almeno dal punto di vista proprio istituzionale e politico, scarsa considerazione, diciamo, di una, a mio parere, di una laicità anche religiosamente intesa. Ecco, poi arrivare sul piano tecnico specifico, no, dei dispositivi questo, legislativi, questo non o si addirittura addenta. Delle richieste, no. Però lei dice una laicità, una vorrebbe più laicità, insomma, almeno soprattutto dal mondo politico. Insomma, sì, mettiamola in modo un po' rozzo così, anche se, ripeto, la parola laico viene dalla tradizione religiosa, non viene dal mondo greco-romano. Fatemi sentire un ultimo ascoltatore, Riccardo da Brescia. Buongiorno Riccardo. Sì, buongiorno Milan. Dunque, la situazione dal mio punto di vista, io sono in completo accordo con la professoressa, in completo disaccordo con altri che ho sentito a questa trasmissione. Io faccio il medico e dovete considerare che ogni medico italiano giura di fronte a Ippocrate, no, il famoso giuramento di Ippocrate, che decide di difendere la vita di ogni singola persona e di non causarne la morte volontariamente. Di conseguenza, se in Italia si creassero quelle condizioni per il suicidio medicalmente assistito, ogni medico potrebbe, o comunque quelli che desiderano farlo, potrebbe decidere di somministrare una sostanza che causi la morte. Io non sono assolutamente d'accordo, perché chiaramente la medicina è la... No, ma è chiaro, ma questa sarebbe, diciamo, anche se vuole, l'esasperazione di qui sopra. Io mi fermo qui e vi ringrazio davvero Francesco Lizzani, il figlio del regista Carlo, che è stato con noi, così come la professoressa Lucetta Scaraffia. Ricordo che tutto è riascoltabile sul sito radio24.it e ci troviamo domattina alle 6:30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.